Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, la voce della comunicazione antagonista. Oggi è il 28 gennaio, anno 2016, sono le 15.04 e Tracce di Cinema è qua come ogni giovedì, anzi non proprio come ogni giovedì. Abbiamo ripreso. Da un po' di giorni abbiamo saltellato, siamo di nuovo qua però con un bellissimo film, Berlin Calling, il film che ogni clubbers ha visto e che se non lo ha fatto dovrà vedere, ambientato nella città degli eccessi, Berlino, con la sua musica, con la sua colonna sonora, travolge come uno tsunami tutti coloro che l'ascoltano. E quindi, come disse Karlheinz Stockhausen, il padrino dell'elettronica, per vedere meglio chiudete gli occhi e buon viaggio nel paese delle cose che non si vedono. Tutta la colonna sonora di questo film, ovvero Berlin Calling, è composta e eseguita da Paul Kalkbrenner e questo era il pezzo Pete. E come diceva prima Federico, mentre andava la musica, com'è che hai detto Fede? Ma non sblocca. Non sblocca, non sblocca, è proprio questa la musica, quella che si balla nelle sale buie dei seminterrati underground, quando i DJ suonano e mentre suonano... Io spesso ho pensato nella mia vita, se mi interrompono questo trip, sono solo le 4 del mattino, io sfascio tutto. Ebbene, è proprio così, questa musica è musica techno pura, elegantissima, forse non proprio così che te strizza il cuore come piace a me, però insomma una bellissima colonna sonora, che è proprio la forza anche del film, insieme all'idea dell'attore, che è lo stesso Paul Kalkbrenner, che è il DJ che compone la musica ma è anche l'attore di questa pellicola, e infatti secondo me sta un po' qua la forza, perché questa realtà che porta in scena è molto versatile grazie proprio al fatto che sia un DJ che interpreta questa storia, che è la storia appunto di un DJ di cui poi magari vi racconteremo. E ascoltando la tua introduzione ho scoperto che Berlino è la città degli eccessi. Berlino è la città degli eccessi perché lì nasce tutta la musica elettronica. E quale musica è la musica dell'eccesso se non la musica techno? E stiamo ascoltando la colonna sonora di Berlin's Calling, e questo era il brano sempre di Paul Kalkbrenner, che appunto vi ho detto che ha composto tutta la colonna sonora, e questo è il brano Aaron. Allora, approfondiamo un pochino su Kalkbrenner, che nasce a Lipsia, poi si trasferisce a Berlino, è disc jockey, musicista e anche attore. Inizia a suonare negli anni 90 e nel 99 segue l'etichetta discografica B-Pitch Control, fondata da Allen Alien. E con questa etichetta che produce i suoi primi 8 dischi, insieme a Sascha Funk, inizia a suonare nei club berlinesi e acquista anche insieme a lui un sacco di dischi di musica elettronica in maniera compulsiva, mi ricorda a me, insomma, all'inizio, negli anni 90 non facevo altro che comprare dischi di musica elettronica. A 18 anni compra il primo equipaggiamento per poter suonare, e che è una passione per lui, e decide che come DJ vuole suonare soprattutto i suoi brani. Sì, e questo film è stato presentato al Festival di Locarno nel 2008 e poi a Berlino e Amburgo. È una pellicola che approda in Italia grazie a una piccola società di produzione, Fede, che probabilmente tu conoscerai, che si chiama Officine Ubu. Come no? E che tra l'altro ha prodotto anche un documentario che io vorrei vedere, forse tu ne avrai anche parlato durante le tue trasmissioni di Visionari, uscito qualche anno fa, che si chiama Incostante Movimento. Il titolo è bello ed è diretto da un ragazzo, Mattia Della Puppa, che fa questo viaggio attraverso il mondo che fa da sfondo a Berlin Calling, quindi club, la musica e tutti coloro che animano, diciamo, le nottate techno e berlinesi. Mattia Della Puppa l'ho avuto ospite, ma per altre cose, mi sa. Beh, dovremmo risentirlo, perché secondo me ho visto delle cose su internet di questo suo documentario e secondo me potrebbe essere interessante parlarne. Comunque, insomma, Berlin Calling è un film che in Germania ha avuto un grandissimo successo, è stato molto amato e pensate che c'è un famosissimo cinema a Berlino che si chiama Kino Zentral, si dice così, che è un cinema, diciamo, de sé, un cineclub un po' speciale, e lo ha tenuto in programmazione proprio per anni, quindi insomma un film amatissimo dai berlinesi. We'll be right back. E questo brano si chiama Mob e continuo con la biografia di Paul Kalkbrenner. E dopo 12 singoli produce nel 2000 produce il disco Superimpose, un anno dopo il Zeit e il suo terzo album Self. Nel 2004 il regista Hans Steuer si mette in contatto con Paul e gli spiega che vuole fare un film sulla musica techno elettronica e proprio nell'underground berlinese. Quindi Paul Kalkbrenner insieme al suo vecchio amico Sascha Funk si trasferisce in Provenza per 6 mesi e lontano dalla fredda Berlino compone i brani anche innovativi, insomma, che poi fanno parte sono diventati la colonna sonora di Berlin Calling. E qua gli amici vecchi e nuovi sono all'ascolto, un abbraccio a Pierpaolo, un abbraccio a Sara, a G, tutti coloro che ci ascoltano. Io non ho salutato gli ascoltatori all'inizio trasmissione e tutti gli ascoltatori che sono dietro le sbarre, che sono privati della loro libertà personale, un grande saluto a tutti loro, un grande abbraccio. E insomma, ci sono delle dipendenze buone e delle dipendenze cattive, eh? Sicuramente quelle più buone sono quelle della musica, del cinema, quelle che ci fanno sognare, ci fanno stare veramente bene. E Berlin Calling non è un film autobiografico, è un film che racconta la storia di un DJ tedesco con la mania delle magliette da Adidas, perché lui ha sempre delle magliette da calcio, di famose squadre di calcio, famoso sulle scene dei club underground berlinesi, che si esibisce suonando i dischi di altri, non suonando i dischi di altri autori, bensì creando sul momento la sua musica. Infatti c'è una bellissima scena in cui lui registra con un telefonino dei rumori all'interno della metropolitana e poi li inserisce in una sua traccia. Comunque DJ Ika è appunto il nostro protagonista e con lui ci addentriamo nelle strade di Berlino, entriamo nei club, nelle serate a base di acido, droghe sintetiche, che nella capitale la fanno un po' da padrone, ma insomma non la fanno solo lì da padrone, la fanno un po' ovunque, e che talvolta fanno uscire pericolosamente la nostra parte più buia e fragile. È proprio questo quello che succede a Martin, il protagonista, che è stravolto da una vita di successo ma anche di eccessi, finirà, dopo essere stato lasciato dalla sua casa discografica, accannato dalla sua casa discografica, e dopo l'ennesima serata passata a suonare in un club dopo aver preso dell'ecstasy e a causa di un bad trip finisce in una clinica di recupero per tossicodipendenti e qui inizia questo suo viaggio verso la consapevolezza. La sua condizione, insomma, tra mille angosce e difficoltà lo portano poi a ritrovare se stesso e a comporre il suo nuovo album Berlin Calling. E il film lascia un finale aperto sulla dubbia salute mentale del protagonista e sul successo di questo disco, ma insomma quello poi dopo ognuno trae le sue conclusioni e spera nel suo finale preferito. Stavo pensando al discorso che facevi sulle dipendenze buone e sulle dipendenze cattive e mi ricordo un murales all'esterno del centro sociale Forte Presio e mi è sempre piaciuto tanto ed era Nessuna dipendenza. la colonna sonora è Berlin Calling, stiamo scontando, e questa era Kastnetz, sempre di Paul Kalkbrenner. E un saluto a Nelly che è sintonizzata, grande, buon ascolto. Questa traccia ci ha portato al nostro ospite Andrea Zambelli, che ritroviamo un'ora dopo Visionari, è sempre con noi. Andrea, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, ti abbiamo poi inviato il link, ti sei visto Berlin Calling? Sì, me lo sono visto, era un film che mi mancava, quindi sono contento anche di aver colmato questa lacuna. Mi ero informato tra i miei amici DJ, invece lo conoscevano molto bene. Molto bene. Era una lacuna mia. Tra l'altro, per quanto riguarda la mia esperienza cinematografica, erano in lizza un paio di lavori che mi portavano che mi avrebbero aiutato a parlare di questo film. Uno era dedicato alla Mutoid Waste Company, documentario realizzato dal collettivo Zimmer Frei a Sant'Arcangelo di Romagna, e l'altro era proprio il tuo lavoro Tecno, il respiro del mostro, che era comunque, mi sembrava, quello più indicato. Infatti ho scelto subito te come interlocutore. Tu Andrea, quindi ti sei dedicato allo studio del fenomeno tecno, della musica techno, dalle origini fino a più o meno gli inizi del 2000, se non sbaglio. Anche un pochino più avanti, sono arrivato all'incirca l'ultima festa ripresa del 2006. L'ultima, okay. Sì. E che ci dici intanto sulla scena techno e sul ruolo giocato da Berlino? Ma innanzitutto vorrei dire che mi è piaciuto molto vedere questo film, perché tratta anche un tipo di scena che è leggermente diversa da quella che avevo osservato nel film techno, nel senso che nel film techno io avevo posto l'accezione su quelle che erano le feste cosiddette illegali, il fenomeno proprio della techno, diciamo così, più underground, cioè meno commerciale, meno legata anche alle etichette che per esempio sono quelle che poi hanno prodotto invece la musica di Berlin Calling, sì. E più legata magari a delle dinamiche anche di viaggio, e soprattutto quello che mi interessava era la riappropriazione degli spazi inutilizzati che veniva fatta da questo movimento, no? Le TAZ, le famose TAZ. TAZ, sì, sulla scia chiaramente del testo Temporary Autonomy Zone di Akin Bey, no? Che è un po' stato il substrato teorico che ha mosso, secondo me, un po' quel movimento lì. Dal punto di vista musicale anche esistono delle differenze, perché la musica che vediamo, diciamo così, in Berlin Calling è quella più, dandogli una categoria, quella riassorbibile nella categoria, diciamo così, minimal tech e tipicamente berlinese, che ha prodotto proprio un tipo di sonorità, un tipo di beat molto specifiche. Questo tipo di musica, come vediamo in Berlin Calling, ha, diciamo, come luoghi di diffusione, club locali, quindi è leggermente diverso il momento, diciamo così, dove si esprime quella musica rispetto a invece alla scena che ho osservato io con Tecno, il respiro del mostro, anche se spesso queste due, diciamo così, sotto insieme della musica elettronica interagiscono, e spesso comunque ci sono anche influenze reciproche dal punto di vista sia musicale sia, diciamo così, dal punto di vista dello stile. Tu ti eri mosso per l'Europa o nello specifico Italia? No, io mi ero mosso, quello che mi era piaciuto porre l'accento in techno era tutti questi viaggi fatti nei paesi dell'est, perché mi interessava molto la dinamica di questi sound che venivano dall'Europa, diciamo così, occidentale, e che portavano nei paesi dell'ex Unione Sovietica questa metodologia di far festa e questa idea della festa libera e della musica comunque non commerciale, della musica immediatamente fruibile. E quindi mi ero concentrato anche perché devo dire che c'era anche una fascinazione proprio di paesaggi, no? Nel senso che quando ti spingi in Ucraina, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca a cercare comunque di fare la festa, anche la dinamica del viaggio diventava importante quanto la festa stessa, secondo me, siccome poi questo movimento viveva anche di interazioni con quello che era il movimento, diciamo così, più dei traveler, no? Di queste persone, come era la Mutoid Waste Company prima che si stanziasse a Sant'Arcangelo, quindi questa idea di nuovo nomadismo, di riuscire a girare in furgone, vivere in furgone e adattarsi, diciamo così, ai territori, alle situazioni dove si va a fare la festa, cercando proprio di sviluppare una dinamica, diciamo così, sinergica tra le persone che vengono dall'esterno, le persone del territorio e la struttura della festa stessa. Senti, questo creava un fenomeno, creava delle piccole comunità che poi interagivano, soprattutto poi quando si andava a organizzare la festa e si sceglieva un posto e gli si dava vita per il tempo necessario per la festa. E questo era anche legato al fenomeno, come dicevi tu, delle tribes, quindi del nomadismo che ha caratterizzato un po' tutta l'Europa. Esatto, sì, nel senso che io, nel senso, studiando un po' il fenomeno, andando anche un pochino più indietro, ho visto come più o meno questo fenomeno, che era nato in Inghilterra, all'inizio vivesse proprio sulla scia del movimento, diciamo così, post-hippie, o comunque che veniva chiamato dei traveler, no? Non esisteva ancora la musica elettronica, però queste persone già avevano sviluppato l'idea di vivere in comunità, se movibili, attraverso l'uso appunto dei furgoni, di camion, di camper, di diciamo così, mezzi di trasporto rieditati a case, no? E sì, c'è una linea di continuità, come anche viene spiegato nel mio film, no? Tra questo tipo di fenomeni, nel senso che chiaramente questa spinta, diciamo così, libertaria, si codifica poi epoca per epoca, prendendo delle caratteristiche, diciamo così, musicali, anche diverse. E Andrea, ciao. Sì. Ciao. Ciao, ti volevo ringraziare innanzitutto per essere qua con noi, e poi ti volevo dire che sono curiosissima di vedere il tuo lavoro, e quindi spero di riuscire a metterci d'accordo per avere una copia. Ci tengo molto. Sì, comunque è disponibile su YouTube il Tecno, il respiro del mostro, perché c'è stata poi una diffusione quando ho cominciato a far girare comunque i primi DVD, poi in rete ha avuto una vita virale assolutamente al di fuori del mio controllo, nel senso che dopo che avevo venduto i primi DVD l'ho trovato su YouTube sottotitolato in cieco, quindi qualcuno si era comprato il DVD e si era anche sbattuto a fare i sottotitoli in lingua cieca, c'è una versione in francese, ha avuto una vita come tra l'altro auspicavo, perché a un certo punto l'ho proprio sdoganato perché avesse una vita libera, no, sul web, totalmente fruibile. Quindi colgo l'occasione anche di ringraziare chi l'ha sottotitolato in spagnolo, in cieco, che sono persone che non conosco e comunque hanno contribuito alla diffusione del film. Grandissimi, allora me lo andrò a vedere su YouTube e spero che lo facciano anche gli ascoltatori, perché non avendolo visto, ma sicuramente sentendoti parlare, sarà un documento interessante e bello. Io invece ti volevo chiedere una cosa, ma sì. Di questo fenomeno, che insomma è stato fortissimo negli anni 90, giusto? Sì, 90, che cosa anche è rimasto fino ai primi anni del 2000. Sì, che cosa è rimasto oggi? Perché io, insomma, che sono ero quando ero più giovane, una fruitrice degli illegali, delle feste, diciamo, techno, fuori dal sistema, dai sistemi commerciali, forse perché sono un po' fuori dal giro, perché sono diventata una vecchietta, ne sento un parlare sempre di meno. Ma che cosa succede? C'è ancora questo? È ancora viva questa cosa? Come si può? Ma secondo me e le persone che comunque, diciamo così, partecipano agli eventi, chiaramente l'età si è abbassata, no? Nel senso che comunque ci sono nuove generazioni che si affacciano comunque a questo tipo di fenomeno. Le feste ci sono ancora, e anche le caratteristiche, diciamo così, primarie di occupare un posto, riappropriarselo per i due giorni necessari alla festa, scomparire, si mantengono. Certamente poi il movimento, diciamo così, techno underground ha risentito del clima storico generale, nel senso, come per esempio il movimento politico ha vissuto un momento di crisi secondo me molto grosso dal 2002, diciamo, da dopo Genova, nei 10 anni a venire anche il movimento techno underground secondo me ha risentito di una dinamica globale di diciamo così riduzione dello spazio di espressività, degli spazi di libertà, e anche un minimo secondo me di innovazione artistica, nel senso che mi ricordo quando il fenomeno è nato anche la musica cambiava ogni due anni, no? C'erano sempre innovazioni musicali, ecco, negli ultimi 5, almeno secondo me, poi negli ultimi 7-8 anni invece, diciamo così, anche la ricerca musicale si è un po' arenata, però non attribuirei diciamo così una colpa specifica al movimento techno, ma più a una condizione generale che è diventato sempre più difficile comunque esprimere, fare cultura, sviluppare nuovi stili, nuove idee, fare ricerca artistica. questo su tutti i campi, no? Anche nel cinema ha vissuto questo, diciamo così, questo momento comunque abbastanza buio. Anche perché, Andrea, la techno nel periodo di maggior fioritura subì un attacco piuttosto forte, soprattutto attraverso i mass media, legato a episodi di cronaca, quindi l'abuso di droghe, le proteste dei ben pensanti e cittadini per questi illegal rave, e comunque è finito proprio nell'occhio del ciclone in quel periodo. Sì, io direi che è uno dei movimenti che è più finito sotto l'ottica, diciamo così, distorsiva anche dei mass media, ma proprio per le sue caratteristiche, mentre per esempio il movimento, diciamo così, antagonista si dotava anche di portavoce, di un certo tipo di legittimità, con anche strutture più fisse, quindi magari era più in grado di sviluppare una comunicazione alternativa. Il mondo della techno underground, per sua natura così variegato e così anche disomogeneo e anche atomizzato, e c'è, poi non c'è, e poi anche magari per la questione delle sostanze stupefacenti, si prestava molto a un attacco di tipo mediatico. Direi che i due movimenti che più hanno subito un attacco mediatico molto forte, posso pensare al movimento techno, al movimento ultras, tutti quei movimenti che, diciamo così, per caratteristiche avevano anche meno chance di potersi difendere mediaticamente. Andrea, io ti ringrazio, è stata una conversazione veramente piacevole, speriamo di risentirci presto. Sì, speriamo di sentirci presto, grazie intanto Federico, che mi ospiti sempre. E speriamo che ciò che ci siamo detti non sia un epitaffio, ma sia uno stimolo per ricreare tutto quello che c'è stato, che insomma forse non si è neanche mai sopito e che è vivo, infatti, dentro noi vecchietti. è una questione di cicli, quindi magari abbiamo vissuto un ciclo adesso un pochino più, diciamo così, arroccati in resistenza. Io auspico sempre che i cicli successivi siano invece creativi e di nuovo floridi. Ma tutto torna. Ma certo. Un abbraccio, a presto, ciao Andrea. Grazie a voi, buona giornata, ciao. We'll be right back. È bella musica lineare, semplice, ripetitiva, ovviamente stiamo parlando. Questa ce l'hai proprio sul cellulare. Eh? Esatto, sì, questo bellissimo brano si chiama Square One, sempre di Paul Kalkbrenner, e stiamo parlando ovviamente, la colonna sonora è Berlin Calling. E questo brano, come tutta la musica di Paul Kalkbrenner, è veramente ripetitivo, e chi ama la musica techno non è un problema, ovviamente chi non gli piace magari non capisce, ma l'obiettivo della musica di questo tipo è proprio quello di raggiungere la trance, ovvero un istinto innato che abbiamo tutti di ricerca del trascendentale, forse non lo so, un po' esagerato, però comunque l'obiettivo è quello. E Paul Kalkbrenner rispetto ad altri lo fa della musica che ti ci porta, perché è molto semplice, lineare, pulita e circolare, anche spiraliforme, però anche ironica e mai troppo ripetitiva, ci porta proprio dentro. E con questo ne approfitto per salutare un nostro radioascoltatore che una volta mi ha preso per il culo perché mi sbaglio sempre alla radio, non riesco mai a parlare dritto, e stiamo parlando di Peter. Ciao Peter. Oh, un grande abbraccio a tutti noi, grande sostenitore della radio, ti aspettiamo con la tua sottoscrizione. È bene che tu lo faccia e che tu non prometta e basta. Ho visto poi che sono arrivate delle chiamate, ricordo che abbiamo ascoltato Andrea Zambelli, è stato nostro ospite, che è il regista del documentario Tecno, il respiro del mostro, quindi prendete nota. E questo era, siccome ha detto cose molto interessanti, e il documentario non l'ho visto, però ne avevamo parlato già a Visionari e mi sembrava molto interessante, prima o poi, visto che poi è fruibile su YouTube, ce lo andremo a vedere. Io se fossi in Andrea lo toglierei e inizierei a stampare nuove DVD, perché qua se vanno i sordi, oh. Cioè, arriva pure a noi una percentuale magari. No vabbè, dai, scherziamo, è bello che la cultura sia libera, indipendente, che non ci siano ostacoli economici per farla girare, è bene che sia così. E vorrei parlarvi invece delle location di questo film, che avvengono tutte in locali che esistono veramente a Berlino, in particolare due famosissimi storici club, Maria am Hausbahnhof e il Bar 25, che sono proprio in cui sono stati costruiti, non sono stati ricostruiti dei setting, ma in cui la festa è veramente avvenuta con Kalkbrenner che metteva i suoi dischi. E poi ci sono, insomma, in questo film Berlino la fa da padrone, perché ogni immagine, c'è una parte di Berlino che proprio evoca le cose più, insomma, quelle più forti nel nostro immaginario, per esempio la stazione della metropolitana di Alexanderplatz, dove si svolge una delle scene più forti del film, in cui Icarus, questo è il nome, diciamo, d'arte, della finzione. Il nome d'arte del nostro protagonista è in crisi di astinenza e vaga come un'anima in pena in mezzo a questi binari, alle scale mobili, eccetera. E poi un'altra scena bellissima è quella in cui lui ha il famoso bad trip e si aggira in quello che, camminando a fianco di quello che resta del muro, ed è una bellissima Berlino quella che viene fotografata dal direttore della fotografia di questo film, che la fotografa appunto con una luce livida, freddissima, soprattutto nelle albe e nelle notti, nelle prime luci dell'alba e delle notti, che sono proprio blu, gelide e fredde come questa città spesso è. Rest. You will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Bye. E abbiamo ascoltato Sky and Sand, questo è il brano che ha avuto più successo del disco, della colonna sonora di Berlin Calling. Sì, e è strano. Sì, è quello che è andato in hit per più tempo, forse perché c'ha la voce, ecco. Questo è meno bello però degli altri brani, secondo me. E la voce, sì, è come hai detto bene, il fratello Fritz. Sì, il regista, di cui non abbiamo parlato assolutamente, è Hans Steuer, classe 1970, e racconta di una serata particolare. Ero al Club Arena con un paio di amici alla festa del Beat Control e Paul era il DJ, o più precisamente Paul si esibiva dal vivo con il suo computer. Poco dopo l'inizio del suo DJ set si sentiva solo un rumore costante, un vero disastro, dal momento che nel locale c'erano almeno 2000 persone. C'era un errore nel cablaggio da qualche parte. Paul ha iniziato ad armeggiare con i cavi sul palco, una situazione veramente assurda. Questa è stata la prima immagine che ho avuto di lui. Poi nel 2004 Paul ha pubblicato l'album Self, pura musica da film, un'elettronica densa di emozioni. E Steuer giura che il protagonista, che è puramente fittizio, ma che è un DJ, forse un pochino si ispira anche a Kalkbrenner. E con questo siamo ai saluti, Fede. Ma non è che lo impongo io, no. Anche se Pietro ancora non è arrivato, Attica, c'è solo Blues. Luca, c'è Attica Blues comunque, sta per arrivare Attica dopo Blues, di noi. Poi la Eschina del Soul, insomma il giovedì una, però dicevamo che questi brani di oggi vanno dai intorno ai 5, 6, 7 minuti. E questo è il prossimo, per esempio, David? 5 minuti e 40, quindi forse è meglio salutare, sì, con comodo. Sì. E poi... siamo molto comodi, e siamo però non troppo comodi, perché la radio ha bisogno del vostro sostegno. Potete sottoscrivere alla radio sul conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56001 85, Roma. Potete sottoscrivere anche cliccando e andando sul sito della radio www.ondarossa.info. Sostieni Onda Rossa, è facilissimo, basta cliccare e inserire il codice della carta di credito ed è fatta. La radio ha bisogno del vostro sostegno per continuare a trasmettere, è in difficoltà, come spesso diciamo da questi microfoni. Ci sono delle magliette bellissime nuove che sono state stampate, oltre alla scarceranda che è qua, quindi vi consiglio di venirle a prendere, perché sono praticamente finite, stanno andando a ruba, perché sono veramente bellissime, le ha disegnate un sostenitore della radio, hanno veramente una grafica stupenda. E tra l'altro io vorrei metterla, Federico, una maglietta sulla nostra pagina Facebook, che è appunto Tracce di Cinema, e così potete vederle e facciamo una bella foto. Facciamo una foto, potete vederle e così convincervi e venire a vedere anche gli studi della radio, che sono bellissimi e che porta fortuna. Sapevi? Venire agli studi della Radio Onda Rossa a lasciare 10 euro. Da te oggi sto scoprendo un sacco di cose. Porta fortuna, porta fortuna. E a me mi hanno tolto una multa. Sì. Sì, dopo che ho lasciato 10 euro. Veramente dispiaciuti, te l'hanno tolto. È così, tolta. Ma Radio Onda Rossa è così, è potentissima, dà delle vibrazioni fortissime, positive, e come sono positivi tutti coloro che la sostengono. Non vi dimenticate, fatelo per favore, non è importante quanto sottoscrivete, ma che voi lo facciate. Indirizzo di posta elettronica è Tracce di Cinema @ondarossa.info, a giovedì prossimo dalle 15 alle 16. Techno Forever.